vede da qui? Mi chiamo Paolo Giacomelli e da quando ho 5 anni vengo qui in alpeggio tutte le estati con le mucche a fare formaggio. La mattina mi alzo alle 5, si beve un po' di caffè con un po' di latte, poi si adunano le mucche, le mungiamo, portiamo il latte nella caldaia e cominciamo a fare il formaggio. Facciamo il formaggio, dopo si dà il siero ai vitelli e si parte con le mucche e si fanno pascolare. Fanno pascolare alla sera lo stesso lavoro, si adunano ancora le mucche, le mungiamo e facciamo ancora una volta formaggio. Fino a che è pronto, diamo ancora il siero ai vitelli, poi si va a dormire e finisce così la giornata. C'è la corrente qua? Qui non c'è, ecco, non c'è la corrente, i lavori si fanno, si va al ciclo della giornata, quando è chiaro si comincia la giornata, quando è scuro si finiscono i lavori. Così. Dove ci porti adesso? Cosa ci fai vedere? Adesso andiamo a vedere la casera, dove facciamo il formaggio. Vieni, andiamo.